Sono andato all'estero, di preciso in Turchia da solo, e ho preso l'eritropoietina in farmacia. Come la prima volta quando mi chiesero: sei al terzo turno degli US Open, cosa ti comprerai? Un jeans. Io vivo, abito a Roma da 18 anni, quindi mi sono prefissato che prima o dopo tornerò. Sono tornato, sono felice. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Tutti convocati, vi spiego subito il titolo, vi spiego subito questa novità. Tutti convocati perché vorrei che tutti, ma proprio tutti quelli che amano, soltanto seguono lo sport, non solo i calciofili duri e puri, partecipassero a questo programma, come parteciperanno sempre campioni e personaggi di tutte le discipline. Ma poi tutti convocati perché lo sport, perché con lo sport, come sentite da questa base, secondo me bellissima, ci si può e ci si deve divertire. La rabbia non basta, o forse ne abbiamo mangiata e bevuta fin troppa. Tutti convocati anche perché le panchine si sono allungate in Serie A, quindi nessuno di voi va più in tribuna e invece la vostra voce che va in campo qui tutti i giorni dalle 2 alle 3 del pomeriggio, da lunedì a venerdì, e poi magari andrete, se siete bravi, andrete anche nella nostra sigla vicino ai campioni che avete sentito. Boh, tutti convocati perché sennò vi faccio convocare da Palazzi e poi sono cavoli vostri. Tutti convocati, Franco Piantanieri in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, qui vicino a me un ospite, un amico graditissimo, non sono riuscito con Ilaria d'amico, Massimo Callegari da Mediaset Premium. Grazie. Sto scherzando naturalmente, Massimo, non te la prendere. Allora, no, figurati, no, mi dispiace per te perché insomma la presenza sarebbe stata, no? Più gradevole. Preferisco chiacchierare con te, giuro. 800 24 00 24, e sentiamo chi è il primo ascoltatore di oggi e di tutti i convocati. Messaggi 349. Ma c'è l'inno del Milan, quello 238 66 66. C'è l'inno del... Non svelarmi tutte le carte subito. No, chiedevo, non lo so, io sono l'inno arrivato... L'inno del Milan lo facciamo sentire dopo. Ah, ok, no, ero curioso, io volevo sentirlo ancora, insomma. Non ti preoccupare che non mancherà. A proposito di Milan, partiamo subito da lì. Dalla depressione all'euforia, al signor Allegri che adesso deve vincere perché gli ho preso Pazzini, gli ho preso un mediano inglese. Niang, ragazzino, che poi magari se vuoi mi dici chi è. Si va a Bologna, Pazzini fa il pazzo, ne fa tre, e adesso dalla depressione all'euforia al signor Allegri che deve vincere. Sì, con un po' troppa pressione, poi lui come sempre riesce un po' a svincolarsi da questa pressione in maniera più o meno diretta, più o meno chiara, però insomma mi sembra eccessiva. E il fatto che Ambrosini, che è l'ultimo rimasto dei grandi del ciclo partito con Ancelotti, sta dalla parte dell'allenatore, dice sì, proviamo a lottare per i primi tre posti, però la Juve è di un'altra categoria, tipo l'Alpe d'Huez per ora, no? La Juve è di un'altra categoria e mi sembra l'unica certezza di questo promo di campionato, come ti dicevo. Tra adesso sì, non fatto per le pay TV, perché il campo di Napoli fatto, non è fatto per le pay TV. Per le pay TV. Il campo di Napoli non è fatto per le pay TV. Poi sul campo di Napoli ti faccio sentire quella del campo di grano, caro Massimo. Senti, questo prologo di campionato fatto per le pay TV, per le pay TV, la Z di Zeman subito si salva per un pelo in casa con il Catania grazie a un ragazzino. Con un ragazzino va ad aprire il sacco di Milano. Con due, perché anche Taxidis, anche Taxidis, se non segna. Certo, no, ma poi un centrocampo che ha dominato quello dell'Inter, dove c'è Cambiasso che insomma... che ormai limita la sua corsa e usa più che altro la testa. Guarin che non ha grandi doti atletiche, mi sembra una squadra comunque l'Inter, c'è un ascoltatore che scrive peggior coppia centrale l'Inter non la poteva inventare, mi sembra una squadra non equilibrata, ieri sera si è visto. Sì, io credo che il problema della difesa dipenda dall'equilibrio della squadra, cioè i due difensori centrali possono avere dei limiti, ma il modo in cui ha giocato l'Inter in queste partite casalinghe, non solo quella di ieri, evidenzia i limiti e non invece i loro pregi tutelandoli, perché gli spazi così aperti con difensori non rapidi, non veloci, non sono la cosa migliore, però Ranocchia individualmente qualcosa di meglio ha fatto rispetto all'anno scorso. Il problema è che la squadra non è equilibrata, come dici tu, e che i gol arrivano perché i centrocampisti perdono gli uomini sugli inserimenti e sono posizionati male sul primo e sul secondo gol, ferma restando una prestazione che è stata una delle più belle per completezza della sua carriera recente di Totti. Ieri sera a San Siro ha fatto cose mostruose. Sì, cose mostruose. Tornando a giocare da trequartista, secondo me il passaggio a Osvaldo è stata la cosa più bella della domenica. Sì, sì. Tornando a giocare da trequartista, per giocare da trequartista ci vuole una grande condizione atletica, ci vuole... Sì, a quei ritmi poi, perché esatto. La Roma ieri già rispetto a una settimana scorsa, una settimana fa... Non so quanto possa resistere Totti giocando in quel ruolo. Spero tantissimo, perché è una roba da impazzire. L'unica certezza, scrive un altro ascoltatore, sono i furti della Juve. Zeman, zero certezze. Sarà dura attaccare la Juventus, però c'è stato questo episodio. Mi sembra che ci sia un grande casino col terzo arbitro. Mi sembra che siamo anche lì alle prove tecniche di trasmissione, come per voi delle PTV. Eh sì, infatti si vede, perché ci ha messo un po' Valeri a recepire l'indicazione di Rizzoli, che peraltro non ha visto bene la dinamica dell'azione. Però qui la confusione la fanno gli addetti ai lavori, perché la regola è molto chiara. Cioè si dice adesso che la regola deve essere cambiata. Sempre dopo le regole devono essere cambiate. Finché ci sono e vanno bene... Da una parte poi dopo, quando non vanno più bene a qualcuno, bisogna cambiarle. Sì. E invece di rispettarle. La regola è molto chiara: se c'è la chiara occasione da gol, non ultimo uomo, la chiara occasione da gol, c'è espulsione, se no, no. L'espulsione c'era sul fallo di Danilo, che forse è al limite sulla riga, più o meno, su Giovinco. Non c'era su Berkic, che però esce malissimo. Esce malissimo. Come si però... ferma a guardare sul gol del Braga, sì, perché poi... No, ma io l'Udinese, sai, prevedo una stagione di, diciamo così, di transizione per essere buoni con gli amici di Udine. Anche perché, insomma, dopo l'uscita del... Guidolina ha gestito male il pre-partita con il Braga, è stato gestito anche abbastanza male il post-partita con il Braga. Nei giocatori sono state iniettate un sacco di incertezze, e quindi l'Udinese è una squadra chiaramente... Bruciata dalla tensione, ci sta. Quel campo bruciato di Napoli invece... No, il Napoli comunque, guarda, se c'è un'altra certezza in queste zero certezze che ho su questo inizio di stagione, al di là della forza della Juventus, inattaccabile al momento, secondo me, salvo prova contraria, che comunque capiremo... In autunno. Napoli va già forte perché è la stessa squadra, è rodata, sai quello che ti può dare, e perché Hamsik è tornato da questo mezzo anno di vacanza che si era preso. Sì, secondo me è perché non c'è più Lavezzi e si sente più responsabilizzato. È il momento anche per lui di decidere che vita e che carriera vuole fare, cioè se essere un ottimo centrocampista, grandissimo centrocampista che segna tanto, oppure se essere un leader che si mette la squadra sulle spalle. Cosa che sta facendo moltissimo in queste vie di stagione, più di quanto ha fatto negli anni scorsi, in particolare nell'ultima fase della scorsa stagione. Però dipende dal fatto che non c'è più Lavezzi, quindi lui si è responsabilizzato, avrebbe anche potuto mettersi in un angolo, quindi è un grande merito. Però quando si dà responsabilità, ma anche fiducia a un giocatore, cambia tutto, e Pazzini ne è la dimostrazione. Beh, io sono convinto che comunque anche le voci di mercato abbiano avuto il loro peso l'anno scorso, sembrava dovesse andare via, forse voleva andare via ad un certo punto, e quindi si è preso questo mezzo anno di vacanza in cui è stato davvero poco brillante, la meno brillante delle tre star del Napoli. Allora, ti ho preparato il podio delle tre dichiarazioni domenicali. Ah, okay. Benissimo. Domenicali, non quello della Ferrari, di cui parliamo poi più tardi con il circo di Grosjean. Allora, prima del traffico, la numero 3. No, innanzitutto Florenzi si è allevato da solo, perché è bravo. Sicuramente mi darà una percentuale, perché fra il primo allevamento e quello di oggi. Mi sa che io ho contribuito a fargli guadagnare un po' di più, eh. Tutti convocati. Ho anticipato anche la sigla che ancora, sulla quale sei ancora carico, devo prendere le misure. Beh, basta. Mi diverto, mi voglio divertire tutto l'anno. Spesso insieme a te, io spero. Eh sì, anch'io. Senti, vuoi sentire la numero 2 dopo Stramaccioni che vuole la percentuale la mezza di Florenzi, su Florenzi. Vuoi sentire anche la su Pazzini? Vuole? Non lo so. Sulla cessione di Pazzini. Credo che abbia detto, ma no, sono contento perché... Ho puntato io su Milito, era un'operazione di fair play finanziario. Sì, esatto. Numero 2. Il mio pensiero è che purtroppo abbiamo questo arbitro che è venuto a arbitrare due volte, una volta ha espulso dopo un quarto d'ora, 20 minuti, Hindler. Ti dispiace perché questo arbitro non ha equilibrio, purtroppo per lui, gli manca il buon senso e rovina le partite, questo è il peccato. Cioè, praticamente Valeri è uno squilibrato, è uno squilibrato che rovina le partite. Ma insomma, un po' troppo, Però se inizia ad accendersi anche l'Udinese, insomma, all'inizio della stagione, non sarebbe la prima volta. No? Non sarebbe la prima volta, ma anche perché, come abbiamo detto, insomma, mi sembra che i nervi delle parti di Udine siano abbastanza scoperti. Ma secondo te quanto dura Allegri? No, beh, io gli auguro di fare meglio dal punto di vista del gioco e del ritmo della squadra, perché così può migliorare. Il signor Allegri. No, fa fatica. Perché? Il signor Allegri? No, ma perché in quelle dichiarazioni ho percepito quale sia la posizione di Allegri, che non mi sembra molto lontana. Mi auguro di sbagliarmi per lui, che è un bravissimo allenatore, e anche per i tifosi del Milan, se devo dire la verità, però mi sembra che non sia molto lontana dalla posizione di Zaccheroni di qualche anno fa. Questo lo vedremo vivendo. Intanto non lo so, però è possibile, anzi è evidente che il rapporto, al di là di quello col presidente, che è sempre stato abbastanza così estemporaneo, almeno in pubblico, quello con Galliani nell'ultimo periodo si è guastato notevolmente. Eh sì, cosa dici? E quindi questo non è un buon segnale per lui, però non deve essere capro espiatorio, perché comunque la situazione è molto più ampia, molto più complessa. Sì, a sentire Allegri, a sentire quelli con buon senso, che a sentire invece Galliani, il Milan è una squadra della Champions League, mi sembra. No, da Scudetto, dice. Scudetto, però competitivi su tutti i fronti, bisogna vincere. Allora, Adolfo, provincia di Pisa, poi Tommaso da Foggia e via con le danze. Adolfo, buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, io sono Adolfo Cicchini, mi occupo delle pubbliche relazioni dell'azienda Pacini Group. Noi siamo quelli che abbiamo realizzato lo stadio, il manterboso dello stadio Isarenas, dove è esordito ieri il Cagliari. Sì. Noi abbiamo, nel senso, voglio dire che in Italia esistono delle aziende di erba naturale, noi siamo una delle prestigiose perché abbiamo un brevetto internazionale. Ti garantiamo 8 settimane per poter giocare. Sì. Io ho chiamato perché si parla dello stadio di Napoli, ma voglio dire, ci sono delle realtà positive, come il presidente Scellini ha creduto in noi, e che abbiamo realizzato il manterboso, un manterboso in gramigne, in gramigne selezionate. Interveniamo anche sul sodo e quindi già che c'è può chiamare De Laurentiis, sì. Presidente adesso dopo questo dopo questo spottone gratuito che abbiamo, noi prendiamo che atto, abbiamo concesso, però. Noi si prende atto, e se De Laurentiis ci sta ascoltando, come penso e spero, allora la contatterà. È certo che il campo di Napoli era improponibile, ma una cosa che vi faccio sentire dopo, Tommaso da Foggia. Pronto? Sì, dica. Sì, io sono un arbitro, francamente sentire le parole di Pozzo danno terribilmente fastidio. Insomma, io credo che quest'anno per l'Udinese ci sia da soffrire un pochettino. Insomma, non credo che ieri la partita sia dipeso dall'episodio del calcio di rigore, così come Valeri non poteva pensare in quel momento che la regola era da cambiare. Insomma, no, ho capito, però resta il fatto, Tommaso, che sull'errore non mi sembra ci siano discussioni. Difficile anche dire che una partita non cambi in quelle condizioni temporali, rigore fischiato all'inizio, sei in 10, sei in difficoltà, mi sembra che non solo sia cambiata, sia finita lì. Ma questo è un po' tutto da dimostrare. Io credo che, voglio dire, non sempre le ciambelle escono col buco. Quest'anno l'Udinese, secondo me, probabilmente non ha una squadra equilibrata. Ci questo può stare. L'Udinese è una squadra in difficoltà, su questo è indubbio, però è altrettanto indubbio che 11 contro 11, magari con rigore, che ci poteva stare per la Juventus, magari ci poteva stare anche il giallo a Danilo, è chiaro che... Probabilmente l'errore di ieri è stato semplicemente che l'arbitro ha giudicato contro la Juve in grado di segnare. Scusate un attimo, ma il problema, tutti parlano di Valeri, ma quel rigore lì lo dà Rizzoli, la segnalazione dell'episodio la dà Rizzoli, che è piazzato in maniera diversa e quindi può vedere benissimo se Giovinco è in grado di arrivare sul pallone eventualmente con chiarissima occasione da gol, come è necessario per l'espulsione o meno. Quindi l'arbitro ha esitato un attimo perché ha subito i due falli contemporaneamente. Prima di ha visto il fallo di Danilo, ma ha fischiato il fallo più grave, che è stato quello del portiere. Allora lì a quel punto è intervenuto subito Rizzoli, a mio avviso, ecco, secondo me segnalandogli il rosso. Sbagliando, però sbagliando. Sì, certo, sbagliando, ma è chiaro, se può sbagliare c'è sempre la buona fede, purtroppo. No, ma Tommaso, la buona fede non la mette in discussione nessuno. Sono lì, quest'anno ci sono lì 80 arbitri, ci sono più arbitri che giocatori, mi sembra piuttosto che ci sia ancora di confusione tra... Sì, ma poi siccome li hanno messi in maggior numero perché siano più vicini, perché l'azione comunque per Valeri non è semplice da seguire, perché Pirlo ha un calcio di 60 metri e mette Giovinco in porta, Valeri è vicino a Pirlo, non è in una posizione sconclusionata o completamente sbagliata. Il problema è che Rizzoli, che è stato l'arbitro che ci ha rappresentato ai campionati europei, è il più vicino e vede male. In buona fede, però sbaglia. Sì, sì. No. Penso che i fatti siano acclarati. 800 24 00 24, numero verde per partecipare e rispondere alla convocazione. Siamo su Twitter, naturalmente, indirizzo @tutticonvocati o mail tutticonvocati@radio24.it. Convochiamo anche l'ultimo e il principe delle nostre dichiarazioni domenicali. Prova a indovinare chi è. Il principe delle dichiarazioni domenicali? La migliore sul podio, al numero uno tra le dichiarazioni domenicali. È dura, eh? Aspetta, dura. Il presidente Lotito. No. Ma porca miseria. Abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo che lo connotavano, ad esempio la grande moralità. È una persona che aveva lavorato anche alla Caritas, che parlava un poliglotta, che aveva una grande personalità. Giuro non era preparato, non ti faccio venire più. Cioè, abbiamo preso Petkovic perché lavorava alla Caritas, mi sembra il top delle dichiarazioni, no? Poi sì, anche perché innanzitutto è vero, lui si è posto bene con grandissimo rispetto, però l'aspetto principale, come sempre, è quello professionale, e lui sta lavorando benissimo dal punto di vista tecnico, sì, professionale. Mi sembra che la Lazio sia anche vagamente sottovalutata come squadra, perché parliamo del Napoli, è il momento della Roma, però la Lazio è rimasta più o meno uguale a se stessa, era già una squadra solida e forte, a Klose, che è uno che la sbatte dentro con la continuità che sappiamo da anni, a Hernanes, che è un super giocatore. Insomma, mi sembra che in questo magma che c'è sotto la Juventus, non considerare la Lazio sia sbagliato. No, è vero, però fa un calcio più propositivo rispetto a quello degli anni scorsi, e quindi per questo va dato merito a Petkovic. Poi adesso leggevo, insomma, in questa mattina, che vorrebbe anche provare a giocare in maniera diversa anche con la difesa 3, cioè ha delle qualità complessive che sicuramente non erano attese con questa rapidità, con questo tempismo al debutto nel campionato italiano, viste anche le sue esperienze precedenti, che non sono in campionati particolarmente impegnativi come quello svizzero o altri. Sì, sai che Zeman stamattina era in Campidoglio per la consegna di un premio? Ah, penso un po', ha già scalato lo scalone del Campidoglio e ha rilasciato dichiarazioni, tra cui: noi rivali scudetto della Juventus dopo la vittoria sull'Inter, presto per dirlo, di certo vogliamo giocarci il nostro campionato, disturbare tutti sul campo, mi auguro che ci riusciamo. Queste ha ragione, è presto. Sì, siamo agli spot per voi delle petite. 800 24 00 24. Pierpaolo, Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo per parlare dell'Inter, della partita di ieri sera, fare una critica a Stramaccioni e alla società. A Stramaccioni, perché nella gestione della partita ieri sera ha impiegato 20 minuti per capire che Cassano pestava i piedi a Sneijder. ha messo in campo la squadra speculare al modulo della Roma, quando invece poteva tranquillamente schierarsi con un 4-4-2. E la critica alla società è che non si possono spendere 10 milioni per un portiere e non comprare un attaccante quando in squadra c'è un Milito. Sì, anche un secondo portiere forse. Sì, esatto, vabbè, questo è sotto gli occhi di chiunque, immagino, anche come riesce a guidare la difesa, cioè come non riesce a guidare la difesa Castellani. Vi ascolto per radio, grazie. A lei Pierpaolo, sono abbastanza d'accordo con questo intervento, mi aspettavo che dal mercato un cambio per Milito potesse certo, arrivare, forse adesso al massimo trattenere Longo, che poi peraltro ha già segnato con l'Espagnol. Sì, sì, ascolti invece, Cassano e Snyder arrivano tutti e due in campo, amici, compagni di pianerottolo, eccetera, eccetera. Vediamoli. Gavettoni, vediamoli però. Sì, soprattutto perché poi la compatibilità è evidente che non sia possibile. Cioè, se quando l'Inter ha costruito l'anno del triplete, uno come Eto'o ha dovuto sacrificarsi dopo aver vinto tutto a Barcellona per dare alla squadra equilibrio, forza, intensità in tutte le fasi, già allora c'era Snyder che era molto più brillante di oggi, non si capisce come possa essere equilibrata una squadra con Milito, pure lui, con diversi anni in più, con lo stesso Snyder e con Cassano che partecipano solo quando la squadra ha la palla. Cioè, quindi certo, di base questo è un problema evidente che è stato amplificato ieri dai quei 5 minuti, mi sembra, non tanti di più se non sbaglio, in cui l'Inter ha inserito Palacio per Cassano, c'è stato un attimo di scintille e di lampi, poi dopo è entrato Cambiasso, l'Inter subito gol e la partita lì è finita. Su Twitter c'è Paolo che ci dice che siamo una succursale di Milan Cenere, non capisco sinceramente perché, ma se ci telefona ci parliamo a voce. 800 24 00 24 è il numero, è e resta il numero verde. Cosa dici? No, è il momento della borsa, se no ti facevo sentire una cosa sul campo di Napoli. La voglio sentire anche perché io poi ti devo leggere il tweet di ieri sera del sindaco De Magistris, che è spettacolare. No, leggimelo adesso. Aspetta, No, praticamente dice in sostanza, non ce l'ho qui al volo, però la sostanza è: complimenti al Napoli, grande partita, spero che la società presto metta in ordine il campo perché è di sua pertinenza e quindi... Ma pare che ci sia il virus. Sì, c'è un fungo, però il problema insomma, è che i comuni quando ci sono, hanno avuto quasi tutti la gestione dei campi e sono sempre stati così assenti, e poi invece di sera grandi complimenti, però attenzione, noi non... Campo nostro, trattatecelo bene. Cioè... E tutti convocati qui, Radio 24 ogni giorno dalle 2 alle 3, io voglio divertirmi con voi, quindi non fate troppo i seri, perché sennò mi deprimo un pelo. E allora mi tocca fare, come sei depresso mi sembra... L'inno del Milan. Dopo! Bravo Massimo Gallegari, l'inno del Milan dopo. Sei depresso, Cristiano Ronaldo, stanco e triste del Real Madrid, non ne posso più. Sai invece chi non è depresso? Anche... Dimmi. Jorge Mendes. Poco depresso. Cristiano Ronaldo, Falcao e Mourinho. Prossimi tre trasferimenti della stagione, percentuali, commissioni. Vi do questa notizia che è importantissima. Oscar De Pellegrin ha vinto la medaglia d'oro nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Londra. Portabandiera azzurro ha sconfitto in finale il malesiano Sanawi 6-5, dunque arriva un oro dalle Paralimpiadi. E questa è una notizia importante perché la cronaca è ovviamente sempre presente qui. Così come è cronaca... Sai che ce n'è un altro che invece... Allora, Ibra è contento, ne ha fatti due. Era lo zingaro che era lì per soldi e picchiava i compagni di squadra come Nenè. Ieri ne ha fatti due, il Paris Saint-Germain ha vinto a Lille e dunque adesso tutti contenti. Mentre Berbatov, attenzione, sai l'ultima di Berbatov? No. Dunque, ha detto no alla nazionale. Pinocchio del secolo, Berbatov. Ha detto di no alla nazionale, con la Bulgaria non va a giocare perché non ha tempo. Ah. E ha forse detto, aveva paura di trovare qualcuno della Juve contro l'Italia, no? No, ma senti questa, perché poi dice non ho mai detto sì alla Fiorentina e ho scelto di tornare in Inghilterra per motivi di famiglia. So dove la mia famiglia si trova meglio, l'Inghilterra mi piace, amo la sua cultura, parlo la sua lingua. Allora, cosa ci stava a fare all'aeroporto con comunque, un biglietto per Firenze detto, in mano insieme a quello per Torino? Mi hanno detto che lui si è venuto a curare qui in Italia nel corso dell'estate, primavera, non lo so. Sì. Me l'ha detto un collega fidatissimo. Sì. E lui quando parlava con le persone che erano lì al centro dicevano ma allora vieni poi rimani qui, e lui diceva io a me la Serie A non piace. Io non voglio venire, io voglio rimanere in Premier League. E allora che cosa si è preso il biglietto a fare? Se voleva, dai, su, per tirare un po', un po' di grano al suo mulino. A proposito di grano, torniamo sulla questione del campo di Napoli, perché è davvero impossibile credere che in una città come Napoli alla fine di agosto si giochi in condizioni così. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? Non so di chi è la responsabilità, ma è uno spettacolo davvero brutto. Ma al di là dello spettacolo è anche rischioso per i giocatori giocare in un campo così, quindi spero che chi di dovere si adopri a far sì che sia un campo decente per la categoria dove siamo. Che ne sai tu di un campo di grano? Il problema del San Paolo è un problema di virus, un virus che è entrato nel terreno. Vorrei eliminare l'idea che qualcuno avesse voluto fare un attentato inserendo una erba invasiva per uccidere la precedente. Io credo che sia dovuto proprio a questo effetto serra di grandi temperature e a questo virus, che insieme non hanno certo contribuito a far sì che San Paolo fosse perfetto. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore. Perché c'era profano, anche l'ipotesi dell'erba killer, c'era anche l'ipotesi dell'attentato a Napoli. Allora, il fungo può essere una cosa seria, nel senso che io ricordo un paio di anni fa andai al Bernabeu nella prima partita di Champions di Mourinho contro l'Ajax e il campo era in condizioni simili e c'era un problema di un fungo, poi è stato risolto. Ci sono altre due cose da dire, che la società che gestisce adesso il campo, che ha ricevuto l'appalto dal Napoli, quindi la gestione è privata del Napoli, è diversa, è cambiata all'inizio del 2012 rispetto a quella precedente, che aveva sempre presentato il campo in condizioni perfette. Avevano garantito a Mazzarri già nell'amichevole con l'Olympiacos di qualche settimana fa che il campo sarebbe stato ieri in condizioni ottimali. Questo non è successo, lui dice me l'hanno promesso adesso per la gara col Parma. De Laurentiis ha detto l'erba dovrebbe crescere bene, speriamo, perché vediamo, insomma, almeno queste due settimane possono servire fondamentale, perché se no insomma all'estero qualcosa. L'immagine che arriva, noi ormai ci passiamo sopra perché abbiamo visto qualsiasi cosa in Italia, però all'estero no. Allora, è il giorno della Roma e non potevamo che convocare il direttore del Romanista, Carmine Fotia. Buongiorno, presente. Direttore. Presente, convocato anche lei. Buongiorno. Senta, perfetto. Straroma titola, alla faccia di Stramaccioni. Beh, alla faccia no, insomma, nel senso che comunque è un ragazzo che viene dal nostro mondo, quindi insomma c'è anche dell'affetto nei suoi confronti, però insomma... E dimostrare che il maestro ancora supera l'allievo, poi insomma questo maestro è una cosa che un po' si è inventata lui per darci un po' un'aura, insomma con Zeman non ha mai lavorato Stramaccioni, quindi Zeman è maestro per tutti perché è maestro di calcio, ecco, mettiamola così. Quindi si è inventato anche questa, ma quella di... Adesso però è un po' jobbato, ha chiesto però la mezza per Florenzi. Per Florenzi? L'ho cresciuto io, mi aspetto la percentuale. Ma insomma, diciamo che Florenzi è sposo con De Rossi in primavera. Sì. Se poi vogliamo dire le cose come stanno. L'unico difetto che c'ha questo Stramaccioni è che vuole fare un po' il Mourinho da noi altri. Non funziona tanto, insomma, nel senso che poi dice delle cose che sono alla fine anche facilmente smentibili, insomma. Florenzi è esploso con De Rossi in primavera, questo lo sanno tutti, insomma. E poi l'anno scorso giustamente è stato mandato a giocare al Crotone in Serie B, ha fatto un campionato di quelli che ti spaccano le gambe e ha dimostrato di essere un calciatore di grande qualità, come è giusto che sia. I giovani che non possono che crescere giocando, che sia in Serie A, che sia in Serie B, che giocare, sia in Serie B, certo, bisogna farli giocare, lo diciamo da anni. È un paese per vecchi, ma un paese di gerontocrati. Ma certo. Per fortuna abbiamo scoperto che invece che tanti giovani arrivisti, guardi, il paragone in politica è proprio semplice. Invece che tanti giovani arrivisti che sono dei finti giovani, dei falsi vecchi, abbiamo un grande vecchio che fa crescere i giovani. nel calcio serve quello che servirebbe alla politica italiana. Quel giovanotto col numero 10? Beh, quel giovanotto col numero 10, io ho sempre detto, io ho anche detto a lui personalmente che se smette di giocare prima dei 50 anni, io lo attacco tutti i giorni per tutta la vita. Perché, insomma, voi avete visto. Ma, ieri, ma non eravamo un paese per vecchi, direttore? Ho capito, ma quando i vecchi sono giovani, e la come si dice, la gioventù non è solo un fatto anagrafico, a parte che insomma 35 anni vecchi mi sembra. Sì. No, però quello che dico io è che in quel ruolo in cui è magnifico Francesco Totti, perché è il soggetto della frase, in quel ruolo in cui è magnifico non so quanto possa reggere ai ritmi della squadra. Va bene, regge quello che potrà, voglio dire, non è che Zeman è un doping, Però sicuramente ieri ha fatto una partita fantastica che andrebbe proiettata in tutte le scuole di calcio, e ha dimostrato di essere giovane perché umilmente si è messo a disposizione della squadra. Cioè non ha preteso di giocare dove può fare ancora i record, poi secondo me li farà i record di gol, ma ha accettato di giocare dove l'allenatore gli ha detto di giocare. Invece con altri allenatori pretendeva di giocare dove preferiva lui? No, c'erano gli altri che lo facevano giocare in un altro ruolo, è il gioco di Zeman che consente a Totti di giocare bene in quel ruolo. Nel gioco di Luis Enrique, per esempio, no, perché non giocava poco sugli esterni, quindi la genialità di Totti è di saper interpretare il ruolo che gli affida l'allenatore, perché se nel calcio uccidiamo la fantasia, che anche un po' l'anarchia, uccidiamo il calcio, e questo Zeman, essendo maestro di calcio, lo sa benissimo. Non ci può essere nessuno che interpreta il suo ruolo in maniera come se fosse una caserma. Sì. Sul campo il ruolo si deve interpretare. Che cosa vuole Zeman? Vuole che Totti giochi tra le linee distribuendo assist ai suoi compagni. E più di ieri che cosa? No, ma come l'ho detto prima, secondo me è stata la cosa più bella dell'intero weekend calcistico italiano, quel lancio a Osvaldo, che quasi non ci credeva. Assolutamente, verticalizzazioni peraltro che vuole Zeman. Sì, che abbiamo due passaggi e poi in porta. E che abbiamo visto molte volte partire da quei piedi. Un'ultima cosa, direttore, adesso non c'è il pericolo del Ponentino già? Ma a Roma, sai, a Roma il Ponentino adesso arriva un po' male, perché tutti sti palazzi, 30 anni fa, 40 anni fa il Ponentino arrivava bello fresco, adesso è un po' frenato dai palazzi, ma io spero che non sia, che non ci sia la solita, il solito spirito provinciale, per cui alla prima vittoria ti esalti, alla prima difficoltà. Già la settimana scorsa Roma era finita. La Roma di Zeman e degli americani non esisteva più, erano tutti scarsi, non c'erano i soldi, abbiamo venduto Bojan, oddio che succede adesso, insomma, tutte cose che sarebbe meglio evitare. Sarebbe bene che l'ambiente della Roma crescesse, l'ambiente romano crescesse all'altezza di questa squadra e della sfida che questa squadra sta portando, diciamo, alle grandi del campionato. Ma dei cugini ancora si può parlare? Si può, appunto, volevo dirlo anch'io. No, mi sembra che in tutto questo piana romanista, giusto, peraltro oggi, mi sembra si stia sottovalutando l'altra metà. Fa fatica, direttore? Sono single. Non ha parenti? Non nella vita, ma sono single, non ho parenti. Non ha parenti. Vabbè, allora, come disse il divino Falcao, il nostro derby è con la Juventus. Se permette, della Lazio, però parliamo noi, perché secondo me se lo merita. Non potete costringere me, però. Non lo facciamo, non ci sogniamo nemmeno. Direttore, grazie. No, però volevo dire io una cosa. Che prego. Col romanista c'è in edicola un bellissimo libro di Giuseppe Sansonna, che è il regista che ha girato Zemanlandia, bellissimo DVD su Zeman. Mi dico, un romanista, edito al Minimum Fax, c'è Zeman, un marziano a Roma, un bellissimo libro agile dedicato appunto alla stagione romanista di Zeman che sta per cominciare. A proposito di Ponentino, Grazie direttore. A presto. Grazie a voi. Grazie. Quando è che gli fanno il monumento sul tema? Prima che cominci a arrivare Ponentino sul serio, perché insomma, io non credo che potrà andare tutto così. Vabbè, però sono stati anche bravi secondo me, perché hanno avuto anche situazioni, episodi avversi in queste prime due partite. Ieri sono stati raggiunti, c'è stato un momento in cui l'Inter aveva preso in mano in maniera disorganizzata e caotica, però la partita, la Roma non era più così compatta, quindi insomma hanno già avuto anche qualche ostacolo da superare. Dichiarazioni di Prandelli: in questo momento non ho la possibilità di recuperare giocatori e Cassano è al 50%, abbiamo bisogno di vincere subito. Chiellini e Thiago Motta costretti a vacanze dopo gli infortuni dell'Europeo, è stato un danno per le rispettive società. Conte parla anche di Conte, ha pagato per omessa denuncia, questo non c'era bisogno che lo dicesse Prandelli, l'hanno già detto i giudici. Poi su Totti al calcio, ma speriamo ci siano giovani che possano sostituirlo. E aggiunge: a Coverciano studiamo Zeman ovunque, anche a Coverciano. Anche a Coverciano. Però il 50% è una percentuale, cioè, buttata lì così fra tante frasi, ma il 50% Cassano è preoccupante. Cioè, se il CT della Nazionale lo valuta solo al 50%, mi sembra è un giudizio che duro. Mi sembra che l'abbia detto anche Cassano quando è arrivato all'Inter. Sono al 50% e stramaccioni l'ha messo subito in campo. Non so come si sia sentito Coutinho e nemmeno gli altri, perché se arriva lì uno ti dice sono al 50%, ok, giochi e non si discute. Coutinho, Palacio, eccetera eccetera, non so come possano averla presa. C'è una dichiarazione anche di Insigne da Coverciano che dice: Del Piero mio idolo, De Laurentiis lo porti a Napoli addirittura. Non doveva... è una bella idea, però io speravo andassi in Australia, perché l'altro giorno quando è uscita è uscita questa dichiarazione del presidente degli Sky Blue di Sydney, dicevo: ma bravo Del Piero, vai in Australia, divertiti, fai una bella vita, prendi quello che devi prendere, eccetera. È arrivato il fratello, aspetta perché non è ancora ufficiale, evidentemente si deve parlare di grano, mi sono cadute le braccia, ti devo dire la non verità. Credo che sia fondamentale, poi per carità nessuno vuole fare conti in tasca Del Piero, però ma faccio quello che vuole, ha fatto una grande carriera anche dal punto di vista economico. A questo punto, siccome parlavo anche con ex giocatori che dicono: guarda, quel momento lì è devastante per uno che è sempre stato abituato ad avere ed essere idolatrato negli stadi. Il giorno in cui ti svegli e dici: oggi cosa faccio? E allora che fai? Vai a giocare in Svizzera? No, vado in Australia. O vai in Australia, o vai negli Stati Uniti, o vai in una città di mare, Braga, in un posto del genere, magari vedi ancora un po' di Champions, e però vivi una realtà differente. Braga, baci tu. Io vado a Sydney con la tavola da surf sotto il braccio. Max da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. E niente, volevo dire, io sono tifoso juventino. Sì. Ho visto tre partite queste da quest'estate. Sì. Quindi, Supercoppa finisce ladri, siete dei ladri. Sì. La prima di campionato siete dei ladri. Sì. La seconda di campionato i soliti ladri. La Juventus quindi vuol dire che la Juventus è tornata a far paura o no? La legga così. Cosa c'entra la Juve, dico? Nessuno dice che siamo forti, che abbiamo 41 partite che non perdiamo. Che io lo dico, nessuno, no, perché io lo dico. No, a parte lei, ma insomma, no, a parte me, ce ne sono anche degli altri, Max. L'ho detto veramente col sorriso sulle labbra. Ma però sì, è come pazzesco. Giusto. No, ma com'è giusto? Ma la Juventus mi sembra che abbia recuperato il suo ruolo istituzionale, mi viene voglia di dire, nel calcio italiano, no Max? Sì, però non questo rubare, questo ladri non è bello, no? Non credo sia una questione di potere istituzionale, basta, è una questione del fatto che dipende dal fatto che in campo c'è una squadra che ha acquisito più forza attraverso i risultati. Certo. In questo senso, secondo me è semplicemente così, ha acquisito più forza attraverso i risultati, quindi poi quando il vento t'aiuta succedono anche cose di questo tipo, però non la prenderei come Max col sorriso sulle labbra, anche perché la Juventus è onestamente in questo momento due spanne sopra tutti gli altri. Poi se mi dite che non aveva bisogno del casino combinato ieri in coppia tra Valeri e quell'altro, Rizzoli vinceva lo stesso la partita a Udine. Roberto, Luca. Buongiorno, sono Roberto da Lucca. Buongiorno. Senta, si può parlare della partita Bologna-Milan? O come no, siamo qua apposta. Ecco, volevo dire, ma il rigore di Pazzini, secondo voi, non sarebbe Pazzini da prova TV? Pazzini da prova TV? Sul rigore, sì. Sì, che non c'era. No, non c'era, cioè, secondo me, secondo me c'è la simulazione, c'era una simulazione di Pazzini. Sì. Ora, come era successo anni fa con Zalaieta, si ricorda, i due rigori del Napoli, che è stata la prova TV, che si è bottato, cioè aveva avuto due giornate ma no, di qualifica. Ma ne abbiamo avute, non solo quella di Zalaieta, che era clamorosissima, insomma. Va bene, Zalaieta è stato espulso per due giornate. Secondo me è anche clamoroso il rigore di Pazzini col Bologna, perché per me quello lì è veramente un tuffo. Non so se lo giudico solo io così, mi sembra che Pazzini abbia fatto Klaus Di Biasi, certamente. Dire da prova TV forse è eccessivo, Massimo. Forse sì, però c'è, cioè, Tagliavento, che debutta in campionato, arbitro anche lui di altissimo profilo, con una prova del genere è preoccupante, e gli è rimasta ancora addosso, sulle spalle, come dici tu, ogni tanto la scimmia di Milan-Juventus dell'anno scorso, dal punto di vista psicologico. La scimmione rimarrà lì per un po', non pensare che se ne vada. È chiaro che è stata desolante la sua prestazione, così come quella della quaterna cinquina arbitrale ieri di Udine. Vorrei parlare... Hai visto la Formula 1 ieri? Ho visto, sì, poco, per quello che mi ha permesso la giornata di lavoro, però ho visto le immagini terribili. Terribili, cioè, sentendo le parole, ho sentito al volo di Domenicali, di altri, da non appassionato, da uno che non vive la Formula 1 quotidianamente, mi colpisce che riescano a parlare anche degli aspetti tecnici della gara dopo una cosa del genere. Che mondo di pazzi, mondo di eroi. Oddio, sono tutto rotto, so. Via della targa, via della targa, non vado andare via. Oddio. Nessun problema, c'è solo un po' di dolore alla schiena, ma passerà nei prossimi giorni. Tutti e due sicuramente hanno un po' di responsabilità, perché non è la prima volta che si toccano in partenza Hamilton e Grosjean, uno con l'altro o con altri avversari, quindi... Un po' lì, un po' anche Maldonado, che con il Jumpstart ha innervosito un po' tutta la griglia in generale, quando vedi una cosa che succede così. Quindi ha stato tanti fattori e, come dicevo prima, eravamo purtroppo oggi noi nel punto sbagliato, nel momento sbagliato. Una giornata di squalifica per Grosjean, Alonso però lo assolve, lo giustifica, dice è colpa anche di Hamilton, è colpa anche di Hamilton. Certo è che ci sono diversi pirati in questo momento della Formula 1, c'è gente che va molto forte, c'è gente però che guida anche in maniera estremamente pericolosa, e credo che Grosjean sia uno di questi. Tra gli altri fatti sportivi di ieri, nei prossimi giorni naturalmente avremo tempo e modo per parlarne, anche l'Italia del basket, che non si ferma più, ha fatto 6 vittorie consecutive, si va agli europei dopo un'infinità di tempo e finalmente possiamo dire, sottovoce magari, abbiamo una squadra di basket, forse. Giuseppe, Reggio Calabria. Reggio Emilia. Ma ha scritto Reggio Calabria, l'ho mandata a Reggio Calabria. Dica. Le chiedo, dottor Gentile, lancio una provocazione. Sì, faccia. Anche perché io qui sto soffrendo come non mai. Come al solito comincia la nuova stagione interista in questo modo qua. Secondo lei, il miglior Lucio, non il Lucio degli ultimi tempi, ma un centrale forte come il miglior Lucio. Sì. E quella partita di ieri finisce 1-1. Guarda, io non... No, anch'io dico no. Io non sono un estimatore di Lucio, neanche del miglior Lucio. L'ho sempre considerato un giocatore molto sopravvalutato, molto, anche molto pagato. e adesso lo considero forse l'unico errore della campagna acquisti della Juventus. La differenza la fa Samuel in quella difesa. No, ma la differenza la fa il modo in cui giocava quell'Inter, certo, che esaltava il contatto fisico e tutti chiusi, tutti compatti e a ripartire con grandissima efficacia, e il modo in cui ha giocato l'Inter ieri sera su 50-60 metri nei momenti di difficoltà. Perché la difesa la devi valutare anche sulla base di ciò che combinano quelli davanti, della protezione di cui dispone. L'Inter non è una squadra equilibrata in questo momento, quindi Lucio non avrebbe cambiato davvero nulla. Allora, visto che lo volevi sentire, sì, dai. Allora oggi chiudiamo la puntata di tutti i convocati con Donato, che ascoltatore, che ci chiama di Frosinone, bravo, chiama e ci propone amico dello chef del presidente Berlusconi un nuovo inno del Milan. Invece di chiamare direttamente il presidente, chiama noi. E allora chiudiamo direttamente con lui, li vogliamo così, li metteremo anche nelle nostre sigle. Io ringrazio Massimo Callegari. Grazie, a prestissimo. A prestissimo, naturalmente. Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanide in redazione. Ciao a tutti, vi lascio con Donato. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, c'è una squadra che ti prende, spende fiato e non si arrende. Forza Milan, ma che ragazzi in gamba!